Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. All'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Questa è la puntata numero 468, nella quale parleremo di delfini sminatori, invasioni di gamberetti, muli immortali e morti premature. Speriamo di avervi incuriosito. Di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Della sera online del 14 gennaio ci racconta che migliaia di gamberetti sono stati trovati sul litorale sabbioso di San Montano all'Acquameno nell'isola campana di Ischia. Una presenza che ha fatto scattare l'allarme della Guardia Costiera, che indaga sulle possibili cause di un evento all'apparenza inspiegabile. Si tratterebbe di crostacei adulti di circa 5 cm appartenenti alla specie Meganictifane norvegica, meglio conosciuta come il krill mediterraneo, fonte di nutrimento privilegiata per la balenottera comune. La loro presenza è solitamente associata a condizioni di mare pulito, trattandosi di una fauna marina che viene facilmente distrutta dagli agenti inquinanti. Sono notizie che ci dà una nota congiunta della Guardia Costiera e della stazione zoologica Anton Dorn di Napoli. Lo spiaggiamento che si è potuto osservare, viene aggiunto nella nota, è un fenomeno anomalo ed episodico dovuto a particolari condizioni di corrente ascensionale capaci di catapultare sulla riva questi crostacei. I ricercatori stanno approfondendo le analisi sugli organismi e sull'acqua di mare per escludere qualsiasi dubbio su possibili effetti derivati dall'inquinamento. Allo stato attuale appare improbabile infatti tale ipotesi, in quanto non è stato rilevato un spiaggiamento analogo per altri organismi sensibili. A prescindere dalle cause del decesso, non possono comunque assolutamente essere mangiati questi gamberetti, vista l'elevata concentrazione di fluoro in una specie non commestibile. quotidiano Il Giorno del 10 gennaio invece ci racconta che la procura di Brescia ha dissequestrato 6 animali, 3 cammelli, una giraffa, una zebra e uno zebrallo, incrocio tra zebra e cavallo, che la forestale aveva sequestrato il 5 di gennaio al circo Orfei allestito nell'area feste di via Borgo Satollo in piena città, appunto a Brescia. Nel corso di un normale controllo, infatti, i militari avevano notato che nei recinti degli animali mancava la sabbia e che nel rimorchio utilizzato per il ricovero delle zebre il termostato non era in funzione. Il PM ha accolto l'istanza di restituzione degli animali, che durante il sequestro sono sempre rimasti all'interno della struttura circense senza però poter partecipare agli spettacoli, considerato il fatto che le criticità che erano state evidenziate nel corso dell'intervento di controllo della forestale erano state già sanate nelle ore successive al sequestro. Alla richiesta di dissequestro è stata anche allegata una relazione veterinaria che sostiene che gli animali presenti nel circo non mostrano alcun segno di malattia infettiva o diffusiva né patologie del comportamento. Le leggi vanno fatte rispettare, diciamo noi, e le attività dei circhi con animali, sebbene sempre più anacronistiche, sono purtroppo ancora legali, ma secondo il nostro punto di vista, a uno sguardo meno tecnico e più attento, non può sfuggire che la vita del circo non è certo compatibile con l'etologia degli animali, specialmente quelli esotici. Pertanto, nonostante il dissequestro e la ripresa dell'attività per tutti gli animali all'interno del circo, venerdì 11 gennaio un gruppo di animalisti ha inscenato una protesta davanti all'ingresso del circo. Una protesta che, come trasmissione, appoggiamo pienamente. When the sun goes down on my side of town, the lonesome feeling comes to my door, and the whole world turns blue. There's a rundown bar across the railroad tracks. Got a table for two way in the back, where I sit alone and think of you. I spend most every night beneath the light of a neon moon. If you lose, you won't know I'm late. There's always room here for the lonely to watch your broken dreams dancing out of beams. È stato professore ordinario di filosofia del diritto, massimo esperto di teoria dell'interpretazione giuridica, autore di una vastissima serie di saggi filosofico-giuridici. Si è dedicato alla filosofia della religione, della spiritualità e della tutela giuridica dei diritti degli animali. È vegano. Chi ci ascolta con una certa regolarità avrà già capito di chi stiamo parlando. Per rivelarlo a tutti gli altri c'è il servizio curato dal nostro Lorenzo Guadagnucci. Telling how many tears I sat here and cried, or how many lies that I've lied to my poor heart. L'editore Gesualdo ha da poco pubblicato, col titolo Scritti animali, una raccolta di saggi e interventi di Luigi Lombardi Vallauri, voce ben conosciuta della nostra trasmissione. È un libro che ripercorre l'originale itinerario intellettuale del professore, per decenni docente di filosofia del diritto nelle università italiane, ma anche cultore delle filosofie orientali ed esperto di pratiche di meditazione. Particolarmente prezioso fra i vari interventi pubblicati in questo libro, quello che apre la raccolta, un'autobiografia bioetica. Lombardi Vallauri vi racconta il suo singolare percorso. Appartenente a una famiglia di scienziati e alti prelati, brillantissimo intellettuale cattolico, con formazione teologica all'Università Gregoriana, Lombardi Vallauri negli anni 70 e 80 è stata una delle menti della campagna contro la legge sull'aborto, nonché fondatore dei centri di aiuto alla vita. rivendica a sé per quel periodo una bioetica cattolica che si voleva laica, nel senso di fondata su argomenti esclusivamente di ragione, nel senso di universale. Il suo cattolicesimo, spiega, era filtrato dalla lezione del Marchese de Sade. Avevo creduto di capire con Dostoevsky, spiega Lombardi Vallauri, che se Dio non esiste, tutto è permesso. L'evoluzione successiva porterà il professore su sponde molto distanti però dal cattolicesimo. La rottura avviene su un punto dottrinale di filosofia del diritto, l'incompatibilità della dottrina cattolica con la dottrina dei diritti umani. Lombardi Vallauri teorizza l'incompatibilità della pena dell'inferno con la Costituzione, che concepisce la pena come strumento di riabilitazione del reo. È un contrasto che lo porterà all'espulsione dall'Università Cattolica di Milano e a un successivo ricorso vinto contro lo Stato italiano davanti alla Corte Europea per i diritti umani di Strasburgo. Un altro punto chiave del cambiamento di rotta di Lombardi Vallauri è la scoperta della questione animale, grazie ad alcune studentesse che gli chiedono di scrivere una tesi sui diritti animali, argomento a lui fino a quel momento ignoto. Arriva così la congiunzione fra una rinnovata sensibilità per gli esclusi, in questo caso gli animali, e le dottrine orientali, in particolare la non violenza, nata in seno all'antica dottrina jainista, con il concetto di ahimsa. E questo, ossia la dimensione spirituale, il contributo più originale di Lombardi Vallauri al pensiero che solitamente chiamiamo antispecista. They come, they go, things I forget. Imprint on plaster, week to week. They come, they go, things I collect. We're different and the same, piled up in corners, green with moss. They come, they go, records I've kept, left in a sudden blaze, slipped through the floorboards as the next day withdraws. Settimana il pasto gentile, curata dal tosco vegan chef Gabriele Palloni, è dedicata a lui, al nostro carismatico maestro e pensatore Luigi Lombardi Vallauri, originario di Dronero in provincia di Cuneo. E in sintonia con l'adagio casa dolce casa, la ricetta sarà un dessert piemontese. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. In questa puntata facciamo un omaggio al nostro caro professor Vallauri, realizzando una rivisitazione di un tipico dolce piemontese, il bonè. Lo serviremo in un bicchierino, così da poterlo gustare anche durante una delle sue affascinanti lezioni. Gli ingredienti per un bicchierino di bonè per 4 persone sono, per il budino, 400 ml di latte vegetale, 40 g di amido di mais, 20 g di cacao amaro in polvere, 40 g di cioccolato fondente, una tazzina di rum, 50 g di zucchero di canna, della vaniglia, un pizzico di sale. Per la salsa al caramello, 100 g di zucchero di canna e 50 ml di acqua calda. Per gli amaretti, 20 g di mandorle pelate e tostate, 5 g di armelline e le mandorle amare, 40 g di farina, 15 g di fecola, 15 g di amido di mais, 5 g di farina di ceci, 30 g di zucchero di canna, 50 ml di latte di soia, 15 ml di olio di semi di girasole, della vaniglia, un pizzico di cremor tartaro, un pizzico di bicarbonato e un pizzico di sale. Infine, per decorare, della panna vegetale e della granella di mandorle. Per prima cosa, preparate gli amaretti. Tritate in un mixer le mandorle e le armelline, assieme allo zucchero di canna, fino a ridurle in farina. Mescolate tutti gli altri ingredienti e se l'impasto risulta troppo denso aggiungete altro latte di soia, ma poco alla volta. Con una sacca à poche fate dei piccoli dischi distanziandoli un po', in contura si allargano leggermente. Infornate a 180 gradi per 20 minuti e lasciate raffreddare. Nel frattempo realizzate il budino, fate sciogliere l'amido di mais ed il cacao in polvere nel latte vegetale. Aggiungete lo zucchero, la vaniglia, il rum ed il sale, quindi portate ad ebollizione a fuoco lento e quando l'amido avrà iniziato ad addensare il budino, unite il cioccolato fondente tritato e mescolate bene il tutto. Adagiate un amaretto sul fondo di ogni bicchiere, quindi coprite con il budino ancora caldo e lasciate raffreddare. Adesso realizzate la salsa al caramello. Fate sciogliere a fuoco lento lo zucchero di canna senza mai girarlo. Fate attenzione che non si bruci, roteando lentamente il pentolino. Quando tutto lo zucchero sarà sciolto, versate l'acqua calda, facendo molta attenzione agli schizzi. Mescolate con una frusta e lasciate raffreddare. Coprite ogni bicchiere con un cucchiaio di caramello. Decorate con un fiocco di panna montata vegetale, un amaretto e della granella di mandorle. Oggi parliamo di un progetto ambientalista che si chiama Canvor, dietro cui c'è il compositore brasiliano Sebastian Plano. I proventi dell'album digitale Canvor, a cura di Sebastiano Plano e di altri musicisti di elettronica, andranno al 100% Surfers Against Savage, che raccoglie fondi per sensibilizzare la popolazione sui gravi danni come l'inquinamento plastico. Andate a cercare, a scaricare a pagamento questo album digitale e noi ascoltiamo Preservation. Thank you. sin dai tempi degli antichi l'uomo si è servito della forza degli animali durante i periodi di guerra. L'esempio più classico è quello dei cavalli, protagonisti indiscussi delle più importanti pagine di storia bellica, ma i cavalli non sono stati gli unici compagni di battaglie dell'uomo. Oltre a loro ci sono altre 12 specie almeno che sono state utilizzate in vari modi, in varie forme, nella storia della guerra. Tra gli animali più utilizzati ci sono i piccioni, impiegati anche dagli alleati impossibilitati a servirsi delle comunicazioni via radio durante lo sbarco in Normandia nel 1944, gli elefanti, pensiamo all'esercito di Annibale che varcò le Alpi utilizzando i pachidermi. C'è stato un orso, il famoso Wojtek, un orso bruno siriano adottato in Iran dai soldati della 22esima compagnia di rifornimento dell'artiglieria del corpo d'armata polacco. L'orso Wojtek è morto nel 1963 allo zoo di Edimburgo ed era stato protagonista della battaglia di Monte Cassino. Ci sono i cani, utilizzati tutt'oggi dai soldati, impiegati per trovare i corpi dei morti e dei feriti, ma anche come guardia degli accampamenti o equipaggiati in vario modo per piccoli trasporti. Ci sono i delfini, forse pochi di voi immaginavano che anche in epoche recenti i marine statunitensi hanno addestrato delfini per scovare mine posizionate nelle acque del Golfo Persico durante la prima guerra del Golfo e la guerra in Iraq del 2003. Ma oggi ci concentreremo su un particolare animale, il mulo, apprezzato per la resistenza alla fatica. Il mulo è uno degli animali più ampiamente impiegati nelle guerre. In Italia i muli sono stati utilizzati sin dalla nascita del Corpo degli Alpini, avvenuta nel 1872, soprattutto per il trasporto delle provviste e trasporto degli obici. Attualmente l'esercito del Pakistan impiega ancora questi animali tra le proprie file, ma noi vogliamo parlare di un ex combattente. E andiamo a Treviso, dove ha compiuto 40 anni Iroso, l'ultimo mulo con una carriera nelle truppe alpine. Iroso è la matricola numero 212 delle Penne Nere. L'animale mantiene una discreta salute, benché abbia perso la vista, e in suo onore domenica prossima a Vittorio Veneto sarà organizzata una festa di compleanno. Iroso è l'ultimo in vita dei muli che hanno servito l'esercito. Era stato messo all'incanto quando dagli animali si è passati ai cingolati e l'ex alpino Antonio De Luca lo ha comprato per 1.250.000 lire a un'asta, salvandolo dalla macellazione, peraltro strappandolo ad un austriaco che lo voleva per sé. Di eccezionale c'è il fatto che Iroso, con i suoi 40 anni, praticamente raggiunge l'età di un umano di 140, quindi un vero record. Oggi, pressoché cieco e senza denti, Iroso viene alimentato con cibo sciolto nell'acqua ed è affiancato da una mula che lo accompagna ancora nelle sue passeggiate tra i colli trevigiani. Da una parte abbiamo Iroso, il mulo centenario, dall'altra abbiamo Pimpi, una cagnolina morta prematuramente a causa di un boccone avvelenato. Parliamo di Pimpi perché su Facebook la scrittrice Susanna Tamaro le ha dedicato un lungo post per darle il suo commovente addio. Sì, infatti Pimpi era la sua piccola amica. Noi vorremmo leggere qualche riga di queste parole di Susanna Tamaro per dedicarle non solo a Pimpi ma anche a tutti gli altri cani meno noti e meno protetti di Pimpi, che pure sono morti e muoiono ogni giorno a causa dei nefasti bocconi avvelenati. Ti ho cercata a lungo e alla fine ti ho trovata dietro le sbarre di un canile. Per un mese, come la volpe con il piccolo principe, sono venuta a trovarti con regolarità perché volevo essere certa che la gioia che provavo io nel vederti la provassi anche tu. E alla fine, quando ti ho portato a casa, è stato subito un grandissimo amore. Eri intrepida ma mai fanatica, allegra e ubbidiente, amavi i cani, i gatti, i bambini. amavi il mondo intero e i tuoi occhi osservavano il mondo con inesausta curiosità. Avresti dovuto essere il cane della mia vecchiaia. Piano piano, con gli anni, avremmo rallentato il passo insieme e poi un giorno ci saremmo seduti sulla panca davanti casa e avremmo visto il sole tramontare, consapevoli che, oltre il tramonto del giorno, quello sarebbe stato anche il tramonto della nostra vita. Nei lunghi anni di compagnia, con la tua gioiosa felicità, saresti stata l'antidoto naturale all'inevitabile malinconia del passare degli anni. Ma purtroppo non è stato così. Addio, piccolo raggio di luce, meraviglioso arcobaleno che hai allietato un tempo purtroppo così breve. Conclude così Susanna Tamaro il suo addio a Pimpi, la sua cagnetta morta prematuramente a causa di un'arma orrenda e vigliacca, i bocconi avvelenati. Vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 469 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.